A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, lo scudetto annunciato dell'Inter, la resa del Milan, il crollo verticale della Juventus e poi le speranze di terzo posto a questo punto della Fiorentina, il testa a testa tra Torino e Bologna per salvarsi, mentre a Reggina e Lecce ormai servirebbe praticamente un miracolo. Qualche numero significativo, l'Inter ha 81 punti, gli stessi di un anno fa, significa che se lo scorso anno ha dovuto giocarsela sino a 20 minuti dalla fine è la concorrenza che è mancata, concorrenza rappresentata lo scorso anno dalla Roma. La Juve non vince da 7 partite e non accadeva dalla bellezza di 26 anni, bisogna risalire all'82-83 per trovare una striscia così negativa della Juventus. Altri dati curiosi, beh, ce ne sono tanti, ma in apertura volevo segnalarvi questi. Nelle ultime 5 partite la Regina sarebbe terza in classifica e invece come vi dicevo sta, insomma, è praticamente retrocessa, anche se ancora non in maniera aritmetica. Il Torino non vinceva fuori casa da più di un anno, 11 maggio 2008 1-0 a Livorno. Il Napoli, d'altra parte, che ha perso in casa col Torino, era quinto nel 2008 e cioè aveva 30 punti alla 17ª giornata. È ultimo nel 2009, chiude la classifica addirittura. Nel 2009 hanno fatto 39 punti l'Inter, 38 il Milan, 35 la Fiorentina, eccetera eccetera. In fondo c'è il Napoli con 13 punti, Catania e Lecce ne hanno fatti 15, Reggina 17, Bologna 18, eccetera eccetera eccetera. 800 24 00 24, il numero come sempre per i vostri interventi in diretta, gli sms stanno già arrivando, le mail come sapete cerco di dragarle velocemente nell'intervallo dei mercati per evitare sovraffollamenti ed emicranie e soprattutto per evitare confusioni. Le voci invece possiamo ascoltarle sin da ora ed è ovvio che si comincia con un omaggio all'Intercampione d'Italia e quindi Mourinho sulla partita di ieri sera. Sì, era importante vincere, penso, perché era una festa senza grande senso se non si vince la partita. I ragazzi hanno fatto una partita seria, non hanno scherzato, e Ibra ha fatto il suo gol che le permette di essere vicino a Di Vaio fino alla fine. Io penso che così è veramente perfetto. Calendario alla mano, chi va in B? Domanda Roberto. Coraggio, una previsione. Io spero il Bologna, aggiunge Roberto. Credo che tra Torino e Bologna sarà una lotta fino alla fine, anche se il turno di domenica prossima potrebbe dare un orientamento decisivo, nel senso che tutte e due ieri hanno fatto a modo loro un'impresa, nel senso che il Bologna ha risalito una partita che si era messa malissimo e diciamo che gli sia andata male, no, ecco, perché tra il gol al 94esimo abbastanza avventuroso, il pareggio in fuorigioco, l'espulsione di un leccese che sicuramente ha trasceso, ma che in una partita di quel genere, insomma, l'arbitro in 9 casi su 10 cerca di non ascoltare, anche se la colpa ovviamente è di chi si comporta in maniera maleducata come ha fatto Papadopoulos. È vero, il Torino ha fatto un'impresa, qualcuno ha avuto a ridire sull'impegno nel Napoli senza aver visto la partita, immagino, ma soprattutto senza tenere conto di quel dato che ho appena letto, e cioè il Napoli è ultimo in classifica nel 2009 e se non avesse accumulato tanti punti con Reja nel girone d'andata sarebbe una squadra che a questo punto non so se avrebbe ancora la forza di lottare per salvarsi. Quindi tutto questo, dicevo che la gara salvezza ha una svolta domenica perché Torino riceve in casa il Genoa ed è un'altra partita molto difficile se il Genoa farà il Genoa, mentre il Bologna si gioca il quarto e ultimo spareggio diretto di queste 4 giornate a Verona. Se pareggia col Chievo può ancora sperare che poi il Torino perda a Roma, ammesso che il Torino batta il Genoa, perché in caso di arrivo a pari punti sarebbe il Bologna a salvarsi per i confronti diretti. Insomma, è ancora abbastanza complicata. Il Chievo sembrava salvo e invece formalmente ancora non lo è, e certamente non può permettersi di perdere la partita di domenica con il Bologna. Se semplicemente la pareggia, a quel punto è salvo. Torniamo ancora a Mourinho, che parla di Europa. Mi sembra che quest'anno si dimentichiamo Arsenal, che non mi sembra una squadra non è una squadra più forte di noi. Mi sembra che le altre tre squadre che sono arrivate a semifinale sono squadre più forti di noi. Ovviamente noi abbiamo avuto un po' di sfortuna a Manchester e poteva essere possibile fare diverso, però sono assolutamente consapevole che loro sono più forti di noi. Se noi prossima stagione riusciremo a essere più forti, io penso di sì, che possiamo essere più forti, principalmente perché queste due partite con Manchester hanno dimostrato una squadra che già pensa e vive la Champions League di un modo diverso. Non ha vinto, però pensa e vive e gioca di un modo diverso. E chissà questo con i 3-4 giocatori che noi stiamo lavorando e cercando per rafforzare la squadra, sicuramente la squadra andrà a un altro livello. Però dire che se vince Champions League o se gioca per vincere Champions League è difficile, perché non mi sembra che il Barcellona, che il Manchester, che il Chelsea il prossimo anno sono più deboli. Propongo il gol di Volpi, che ha deciso Bologna-Lecce come il più bello della giornata. Classe allo stato puro, scrive Stefano da Bologna. Beh, insomma, io ho visto, sinceramente ho visto di meglio. Bravissimo Volpi ad allargare il destro per evitare di calciare sul portiere in uscita, però ho visto due magnifici gol, per esempio del Torino a Napoli, perché l'esecuzione di Bianchi è splendida e la punizione di Rosina è assolutamente perfetta, una punizione da grande specialista vero. Il gol più bello di giornata, ho visto un grande gol di Tiribocchi a Bologna, semmai magnifico il modo, la scelta di tempo con cui è entrato di destro al volo su quel traversone a destra. E il gol più bello di giornata per me è quello di Lazzari, il gol del Cagliari a Reggio Calabria, perché si è inventato un numero che, se anziché Lazzari lo fa un giocatore di grido, stiamo a parlarne per un po' di tempo. Concludiamo l'omaggio all'Inter campione con un frammento sempre tratto da Sky del presidente Moratti. Sento di dire di Mourinho che io devo ringraziarlo, perché il primo anno in Italia, col fatto di essere l'unico allenatore straniero, col fatto di venire all'Inter, che certo non è una squadra super aiutata da tanti punti di vista, insomma si è comportato molto bene, ha vinto. So che la sua abitudine è quella di vincere due volte di seguito, quindi gli auguro di confermare questa sua abitudine. Involontariamente e volontariamente, o soprattutto con un po' di fortuna, siamo riusciti a portare tanti titoli a questa società. Non è un zero titoli come... Devo dire che ha avuto un successo infinito. Adesso vedo l'altra sera, vedo una cosa di carattere politico e viene usato zero titoli. Avevo dimenticato un gol tra quelli belli di ieri, che è dal punto di vista balistico il più bello di tutti, ed è quello di Cristiano Zanetti a Torino, perché il coraggio di rischiare un colpo al volo da quella distanza e incastrare la palla nel set è una prodezza assoluta, senza dubbio. Cominciamo le conversazioni del lunedì con Francesco da Palermo. Buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Innanzitutto come interista sono contento, ma devo dire la verità, noi quest'anno abbiamo giocato soli, perché il Milan e la Juve è da mettersi le mani nei capelli. È una confusione, non si capisce il gioco. Sì, Mourinho non ha un gioco spettacolare, ma la continuità, e questa nessuno gliela può levare. Poi un'altra cosa, chi merita fra Torino e Bologna di andare in B? Io penso tutte e due, perché sono due società che hanno cambiato due allenatori, tre allenatori e non hanno un futuro. E molte altre squadre di Serie A che la finiscono e fanno un campionato a 16 squadre, perché è vergognoso vedere certe squadre in Serie A. Questo volevo. Auguri a tutti. Auguri a lei. Poi vorrei vedere se ci fosse il Palermo nelle ultime 3-4, se userebbe il termine vergognoso per dire che ci sono troppe squadre in Serie A. Ci sono troppe squadre in Serie A, ma questa è una riflessione da fare a 360 gradi, ed è una riflessione che condivido. L'importante è non mischiare un ragionamento serio con aggettivi come vergognoso. Ci sono già Ambrosini e Materazzi, no? Mi pare che si danno da fare e fanno del loro meglio per elevare il dibattito calcistico, il livello culturale del dibattito calcistico italiano. Quindi vediamo di non seguirli su quella strada, sia pure lontanissima, perché ce n'è da percorrere per arrivare ai loro vertici. Marco ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Io chiamavo per dire, e ho seguito sia la Juve sia Udinese, e sono contento che Berlusconi ha preso posizione su Ancelotti, perché io sono convinto che anche che gestendo meglio i giocatori il Milan poteva fare molto di più, e quindi sono contento. Non chi verrà, ma secondo me chiunque verrà, anche con gli uomini che abbiamo potevamo fare meglio, perché secondo me non esiste giocare una punta se una punta si chiama Pato o Inzaghi da soli su una difesa a 4, non segneranno mai. E se uno non capisce che bisogna giocare almeno con due punte, non avendo noi Ibrahimovic, non potremo mai vincere niente. Quindi chi verrà non lo so, ma di sicuro c'è la speranza che magari qualcosa di più si possa fare. Qui la speranza non l'avevamo, con l'Inter arrivavamo sempre secondi. E io sono convintissimo di questo, purtroppo anche parte di San Siro è convinto, sono convinto è con me. Ancelotti, i suoi pupilli, Pirlo, Seedorf e Maldini, anche quando sono non da panchina ma da tribuna, sono sempre in campo. E invece, secondo me, deve giocare chi è più in forma, tipo, non chi ha il nome. Tipo Ronaldinho, per fare un esempio, insomma, no? No, intendo dire che se il motto è il presidente ha sempre ragione, beh, insomma, un po' più di Ronaldinho, magari, che era più in forma quest'anno, ci stava. Si è visto che quando sono entrati altri uomini, tipo Udine nel secondo tempo, il Milan ha giocato in un altro modo. Ma non bisogna farlo sul 2-0. No, certo. Bisogna farlo sul 0-0. Marco, purtroppo avete avuto, voi del Milan avete avuto questo flagello di avere, insomma, di questo allenatore incapace per questi anni, ma vedrà che il futuro sarà certamente più roseo con il cambio di panchina e con il cambio di impostazione, soprattutto di insomma, che si profila. Mario da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire brevemente che da quando i pionieri del Genoa hanno fatto nascere il calcio in Italia e con Pasteur, la Federazione Calcio Italiana, l'ultima partita di ogni campionato, più o meno illecitamente le squadre che avevano bisogno di punti li ottenevano. Ora il Genoa per questo ha pagato e pagato duramente, il suo presidente ha avuto anche gli arresti domiciliari, ha speso decine di miliardi, ci hanno mandato in C, doppia retrocessione che mai nel mondo è successa, con 6 punti di penalizzazione. Ora il nostro presidente non può venire in campo a festeggiare con noi che dopo 17 anni abbiamo ottenuto l'UEFA, perché paga 10.000 euro di multa. Perché insomma non può farlo questo. No, perché ne ha combinate troppe prima, Mario. Mi dica lei quanti ne hanno combinato da sempre. Io guardi, ho tanti anni che posso capirlo, posso saperlo, che ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Sì, con una piccola differenza, Mario. Io rispetto molto non solo i suoi anni, ma la sua passione e la sua memoria storica del vecchio Sena. Lei dice che tante cose non, insomma, che tante volte sono successe cose poco chiare oppure fin troppo chiare, ed è vero, però quando ti pigliano con la fresca in bocca all'ultima giornata diciamo e hai già dei precedenti amministrativi gravissimi come quelli di Saronno e di Como, beh, insomma, è abbastanza normale, io credo, che la giustizia sportiva non sia troppo disposta a fare sconti, credo, eh? Probabilmente all'estero non potresti nemmeno detenere una società. In Italia non è così e va bene così. Altri numeri: la 6ª vittoria consecutiva dell'Udinese, 10 gol nelle ultime 10 partite di Pelissier del Chievo, 13 in totale in campionato, 17 vittorie del Palermo, record storico perché il Palermo in Serie A non le aveva mai ottenute, 281 le panchine di Carlo Ancelotti, a proposito di reprobi e incapaci, che in questa speciale classifica ha superato niente meno che Paron Rocco, che era fermo a 280 presenze sulla panchina del Milan. Antonino ha chiamato da Bari, buongiorno. Buona giornata a lei. Senta, volevo rivolgerle questa domanda. La Lazio, che ha vinto la Coppa Italia, di diritto entra nella piccola Europa. Sì. È nel gruppo di 4 o la 5ª squadra? Tutto qui. Credo sia nel gruppo di 4. Non, io sempre, i regolamenti li cambiano ormai una volta, non dico ogni 6 mesi, ma al massimo 2 anni. Quindi non vorrei. Chiedo aiuto come sempre a Flavio Suavi, che adesso perlustra il regolamento UEFA e troverà questo dato. Ma io credo nelle 4. Tant'è vero che in UEFA ne vanno tre, adesso rifacciamo i conti esatti. Ho letto con piacere su Corriere della Sera due citazioni dal verbo di Lapo Elkan, possibile futuro presidente della Juventus, anche se c'è stato già uno sbarramento da parte della tifoseria juventina. Leggo nella rubrica di Luca Bottura due citazioni classiche di Lapo Elkan dei giorni scorsi. Mi piace molto Seedorf, credo che Seedorf corri come un pazzo, e lì può essere uno slittamento linguale, ma più i giocatori pigliassero esempio da voi più sarebbe meglio, e sinceramente questa l'ho trovata diversa. Diciamo che è più creativa, ecco, più in linea con, in sintonia col personaggio. Gianluca da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno a lei signor Garanzini. Dica. Io sono un interista che si fa una domanda a dispetto di quanto è accaduto, e quindi le sottopongo questo mio dubbio. Mourinho, secondo lei, è promosso o bocciato? Mi spiego. Se da una parte vincere non è mai facile, neanche quando si è i più forti sulla carta, lei vede meglio di me il Bayern o il Lione, d'altro canto Mourinho, pur avendo chiesto certi giocatori, non ci ha fatto vedere quel gioco di cui lui ha sempre parlato e di cui si è sempre vantato. Io lo rimanderei a settembre, cioè alla prossima stagione. Lei che dice? L'ascolto per radio, grazie. La penso esattamente come lei, Gianluca, nel senso che io credo che abbia fatto, vincendo il campionato in maniera assolutamente meritata, su questo non c'è discussione, ma abbia fatto grosso modo il suo minimo sindacale dal punto di vista del mestiere in senso stretto. Poi da altri punti di vista ne ha fatte di più o di diverse che possono o meno piacere. Il salto di qualità in ambito internazionale che era atteso da Mourinho, e per cui i figli di Moratti che sono stati, diciamo, decisivi nella scelta del tecnico stavolta, più del babbo, si aspettavano evidentemente altro, e cioè dopo Mancini e dopo due eliminazioni consecutive in Coppa all'inizio della fase, non più a gironi ma eliminazione diretta per l'appunto con Villarreal e Valencia, quello era l'obiettivo, cioè dare una caratura. Questo se ci riportiamo agli obiettivi dichiarati, no, di inizio stagione, ai tempi in cui per esempio il Milan, e sono parole di Galliani, di Berlusconi, la mission era vincere il campionato, proprio perché non avendo l'impegno di Champions quest'anno il Milan avrebbe puntato solo ed esclusivamente a vincere il campionato, e questo legittima oggi, secondo me, la parola, se non fallimento, insomma, molto vicina. La mission dell'Inter, indipendentemente dallo scudetto o meno, visto che gli scudetti erano già tre consecutivi e basta andare a prendere le collezioni dei giornali, era avere una nuova, poi possibilmente vincere la Coppa Campioni, ma soprattutto avere una nuova caratura internazionale. Io credo che da questo punto di vista l'obiettivo sia stato, non credo, cioè l'obiettivo è stato abbastanza nettamente fallito fin dalla fase di qualificazione. Poi è ovvio che discorsi nel giorno in cui festeggi lo scudetto è un discorso che se vuole è intempestivo, però visto che lei me lo sollecita, credo che non ci siano molti dubbi in proposito. Molto carino questo messaggio di Roberto che dice: il gol più bello è di Cristiano Zanetti, anche perché tirando non si è stirato, che in effetti è bellina questa, no? Sembra cattiva e ingenerosa in confronto di Zanetti, povero che si stira anche a scendere dal letto, però insomma, è anche la verità. Tocca ad Andrea da Gorizia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Ringrazio. Volevo dire due cose velocissime. Una, sono un tifoso interista, contentissimo per la vittoria. Non sono più contento però di Moratti, mi ha stufato. Ho sentito anche adesso l'intervista che avete rilasciato per Sky, che l'Inter non è tutelata abbastanza, è da anni che va avanti sempre con queste cose, dovrebbe anche lui darci un po' il taglio con il passato. Vorrei tanto che cambiassimo presidente, anche se trovarne uno che sgancia tutti questi soldi. Credo che non sia proprio dietro l'angolo. E la seconda cosa, visto che c'è un mio amico qui che mi stressa, il futuro di Ranieri secondo lei è già segnato oppure no? Grazie, arrivederci. Ma fino a ieri alle 15 secondo me no, nel senso che mi pare ci fosse stata una retromarcia da parte della dirigenza juventina e che ci fosse, sì, appunto, ancora la possibilità di una conferma per la prossima stagione. Credo che l'ulteriore pessima partita di ieri credo che abbia dato una picconata forse definitiva, perché a questo punto la Juventus sta seriamente rischiando di dover fare le qualificazioni come l'anno scorso, e ha un punto solo di vantaggio sulla Fiorentina, ha un calendario più favorevole, ma sa, un calendario favorevole è teoria quando non vinci da 7 partite consecutive e ti chiami Juventus, quindi credo che si sia molto compromessa ieri questa situazione. Tocca a lei era Andrea da Gorizia, mi pare, quindi tocca a Vito da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno, grazie, buongiorno. Dica. Io sono un milanista, ho un po' di preoccupazione sia se resta, per quanto riguarda sia Berlusconi che il nostro caro Ancelotti, perché ho paura che sopravvalutano tutti e due, indipendentemente se Ancelotti rimane, questa formazione. Cioè, credo che stiamo pagando ancora la vittoria dell'ultima Coppa dei Campioni, perché non si sono ancora resi conto, perché anche a sentire le parole di Ancelotti, che l'anno prossimo basta qualche piccolo ritocco, Berlusconi che dà la colpa ad Ancelotti, con questi giocatori bisognava vincere. Invece si è visto chiaramente, specialmente in casa col Werder Brema, i limiti di questa squadra, cioè non si rendono conto dei limiti di questa squadra, anche in chiave, voglio dire, europea, no? Più che italiana, però i limiti sono evidenti. Poi noi abbiamo vinto l'ultima Champions League, c'era ancora Nesta, senza Nesta, cioè proprio siamo messi ai minimi termini, ecco. Sì, poi l'errore, come quando abbiamo vinto lo scudetto con Zaccheroni, che poi Zaccheroni la pagò. Purtroppo il Milan, quando vince così un trofeo con una squadra non all'altezza, poi sono 2-3 anni la paga. Non so se sei d'accordo con me. Sì, sono d'accordo, sì. Cioè, paradossalmente quella Coppa Campioni 2 anni fa, che poi ha fruttato anche l'Intercontinentale, è stata una disavventura. Però è chiaro che sono discorsi paradossali, no? Perché ti sei dovuto tenere e hai rinnovato per l'ennesima volta dei contratti a gente che poi, insomma, alla fine, se proprio tutto ti va bene, si fanno uno scampolo di stagione o qualche partita. Una visita strettamente privata Ancelotti l'ha fatta stamattina con un suo collaboratore nelle tendopoli aquilane. È stato a Tempera, dove ha incrociato il capo della protezione civile Bertolaso, e poi è andato a Piazza d'Armi, nel capoluogo, dove ha regalato dei gadget del Milan ai ragazzi delle tende, e infine alla tendopoli di Villa Sant'Angelo. Mentre invece Galliani ha precisato che la visita di Van Basten a Milano in questi giorni, e dura ormai da 4-5 giorni, è qui soltanto per giocare a golf, ha precisato per l'appunto Adriano Galliani. E visto che ci siamo, Ibrahimovic, dice Moratti, resta al 90%, penso proprio che sarà così. Si accettano anche opinioni contrarie, tipo la mia per esempio, ma ci sarà tempo, perché non credo che questo tormentone si risolverà così in fretta. Ho ripescato una mail vecchia di pochi giorni, dello scorso giovedì, firmata Franco Detti da San Vincenzo, che diceva: intervengo brevemente per dire che quando impareremo a vivere il calcio come uno sport, potremo fare come i tifosi di Arsenal e Chelsea, che vanno allo stadio prima e tornano a casa dopo, insieme, utilizzando gli stessi mezzi pubblici. La mail di oggi invece, che adesso vi leggo e che mi ha fatto tornare in mente questa, è la seguente: è il racconto di un pulmino che ieri si è avventurato verso il San Paolo di Napoli. All'1 circa usciamo dall'autostrada a bordo del nostro minibus, reso peraltro irriconoscibile da colori e simboli granata, perché la prudenza non è mai troppa. Accostiamo, richiamando l'attenzione di alcune pattuglie di polizia stradale, chiedendo se è possibile avere una scorta per il San Paolo. La risposta è: tranquilli, pigliate la rampa a sinistra e poi diritti, è tutto tranquillo. Immaginate ora un minibus di 6 persone, tra cui una donna, in un mare di migliaia di magliette e sciarpe azzurre. Insomma, un po' alla volta si attira l'attenzione, ci ritroviamo circondati da gente che con spranghi e sassi facevano esplodere i cristalli del nostro automezzo tentando di salire a bordo. Allora c'è stata una carica, cerco di sintetizzare perché la mail è molto lunga. Una carica per allontanare i primi aggressori, riorganizzati poi in un numero superiore, perlomeno in una trentina. Insomma, morale, fuga a piedi, raggiungendo una stazione di polizia stradale, pullman sfasciato, eccetera. Altro non aggiungo, scrive l'estensore di questa mail, perché sui fatti la PS ha aperto un fascicolo. E ovviamente sono in corso delle indagini. La mia proposta è semplice e invoca misure draconiane per fermare definitivamente il fenomeno della violenza e quindi chiudere gli stadi al tifo. In ultimo, firmo questa lettera con nome e cognome perché a differenza di chi ci ha salito, a parte 10 giorni di prognosi per chi scrive e 10 per la mia compagna, aggiunge un tifoso granata da Ancona, Gabriele Gardella. Quindi questi oggi sono, a differenza dei mezzi pubblici che possono usare in Inghilterra, questi sono i mezzi privati che, cioè questa è la fine che si fa ad usare i mezzi privati per andare a vedere una partita di calcio oggi. Stefano da Napoli, buongiorno. Signor Garanzia, dopo questionella che lei ha letto, non mi viene nemmeno la voglia di fare alcune dichiarazioni sulla mia squadra. mi deve credere sulla parola, comunque. No, ecco, questa salute, non voglio nemmeno fare la mia testimonianza, mi dispiace dell'accaduto, va bene, la salute. Stefano, l'aspetto domani, apprezzo molto questa sua reazione e l'aspetto domani per le considerazioni che tendeva a fare oggi e che giustamente lei ritiene superate, grazie. Piero Augusto Stagi, già pronto in collegamento con il Giro d'Italia, dunque la sigla. Voci dal Giro. Ora l'udito, però è raffreddore, l'udito quello che è, ma mi pare aver sentito il campanellino, quindi se il campanellino è suonato siamo a posto. Buongiorno Piero Augusto Stagi. Ciao Gigi. Ciao. Senti, mi sembra sia stata una domenica nera decisamente per il ciclismo. Una festa a metà, una festa. Ho visto i titoli, tu sai che seguo poco, ma ho visto due titoli sulla stampa che insomma ho trovato molto, molto violenti. Milano presa in giro in prima pagina, e ovviamente giro è maiuscola, e poi all'interno in grande servizio giro a passo Duomo, e Duomo è scritto Duomo senza apostrofo come il Duomo di Milano. Racconta. Sì, hai detto giusto che doveva essere una festa, invece non è stata neanche una festa a metà, è stata proprio rovinata. Il ciclismo ha questo potere, i ciclisti ci mettono sempre del loro per, invece di farsi perdonare con delle azioni generose, con delle giornate di festa, con delle imprese, in quel caso ieri non doveva esserci nessuna impresa, ma semplicemente una bella gara in una città che ha dato i natali al Giro del Centenario e che doveva essere la Milano Show, come l'avevano ribattezzata gli organizzatori, e sono riusciti invece nuovamente a farsi addirittura insultare per un atteggiamento semplicemente scellerato. Inizialmente avevano anche una parte di ragione, perché è partita la corsa e alcune vie erano aperte, non erano regolate da vigili, c'erano diciamo delle situazioni poco chiare e favorevoli per l'incolumità dei corridori, ma devo dire che gli organizzatori immediatamente hanno accolto l'invito dei corridori e la tappa è stata neutralizzata, vuol dire tenere i tempi che ci sono, quindi la classifica generale non aveva alcun movimento, rimaneva in freezer e si poteva correre tranquillamente per il traguardo di Milano. Invece hanno voluto strafare, hanno voluto forzare la mano, non si sa bene per chi e per come. Lance Armstrong è stato il capopopolo che è tornato dopo 3 anni e si diverte a far vedere e valere il proprio peso all'interno del gruppo. Gli sono andati indietro corridori che sono stati assolutamente sciocchi nel farsi trascinare nel baratro, e la festa è stata confezionata con questa pagliacciata che è sfociata a 6 giri dal termine con il blocco del gruppo che si è letteralmente fermato sul traguardo di Corso Venezia. La maglia rosa Danilo Di Luca ha spiegato goffamente le ragioni dei corridori che appunto procedevano a passo ridotto, certo, perché c'era poca sicurezza. E poi dopo in realtà non si sono messi a minare la danza, come si suol dire, ma hanno proceduto sempre a ritmo molto blando, se non all'ultimo giro, che l'hanno fatto a 50 all'ora. E giustamente, come dice Angelo Dominani, l'organizzatore del giro, dice: come se andate a 50 all'ora all'ultimo giro, potevano andare anche i 9 precedenti. È stato veramente una pagliacciata che ha offeso Milano e soprattutto i tantissimi sportivi che, nonostante tutto, nonostante quello che il ciclismo regala periodicamente, devo dire, ormai certo. Una cadenza quasi imbarazzante, perché la medaglia d'argento è infangata da Davide Rebellin. Sì, no, certo, certo. Di 15 giorni fa è il potere di questo sport che da un lato e concilia sempre una grande passione, una grande attenzione, una grande partecipazione da parte degli sportivi, e dall'altro invece un gruppo di corridori che non capiscono, che stanno pedalando in uno stato di emergenza. Non c'è dubbio. Grazie a Pier Augusto Staggi per oggi. Torneremo a parlare domani anche da un punto di vista organizzativo, la Cuneo Pinerolo dimezzata, e lì magari chiamiamo in causa le responsabilità dell'organizzazione anziché quelle dei corridori. Sigla. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere il nuovo Transit Connect Turbo Diesel Common Rail a 6.500 euro. Gli amici già collegati. Carlo, dalla provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, signor Garanzini. Senti, io volevo intervenire in merito alla questione Emilia Ancelotti. E lo dico proprio da tifoso del Milan, se potessi dare un consiglio a una persona come Ancelotti, che stimo, gli direi di andarsene, onde evitare l'ennesima presa in giro di giocatori o finiti o mezzi giocatori non più in grado di reggere il campionato italiano. E poi ho sentito un'altra cosa, la notizia che forse Ronaldinho è stato contattato, cercato dal Manchester City. Le io piace. Mi auguro che... Le auguro piace... veramente che fosse vera, almeno questa. Le piacerebbe? Ma magari, ma perché veramente io ho conosciuto pochi giocatori come lui in tutti i sensi, non hanno un collocamento tattico, non si sa esatto, per loro il campo inizia dalla porta dell'avversario fino ai 20 metri, non puoi più oggi nel calcio moderno permetterti giocatori di questi tipi che poi oppure, alla fine... Oppure Carlo, hai una squadra molto forte, molto giovane e molto dinamica, e allora può anche darsi che tu un giorno, quando tutte le cose vanno bene, dici ma proviamo a vedere se anche uno che cammina ci può arricchire, però in questo Milan certamente no. Caro Garanzini, scrive Stefania, con Ronaldinho in campo e senza Pirlo eravamo primi in classifica, qualcosa vorrà dire. Ah certo, se fosse vero qualcosa vorrebbe dire Stefania, sicuro. Ancelotti via perché ormai ha fatto il suo tempo, prosegue Stefania, da 8 anni si gioca alla stessa maniera, comincia a difenderlo un po' meno e a guardare un po' di più le partite del Milan prima di parlare. Io mi sforzo di guardarle, si vede che non riesco a trovare la chiave di lettura giusta, oppure è da un po' di tempo che il presidente non fa più le formazioni, insomma, che invece ai tempi d'oro faceva, e quindi tutto andava sempre in maniera molto ma molto diversa. Giuseppe da Mantova, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Ho una piccola domandina. Io ho visto la partita Milan-Juve e Udinese-Milan. Sì. Io ho visto un Milan un po' bruttino, diciamo. Ma secondo lei se la farà andare in Champions League senza arrivare a preliminare? Perché vedo la Fiorentina, c'è un bel gioco tranquillo, fa il suo colletto e via. Cosa ne pensa lei? Grazie. Ma penso che mancano due sole partite e il Milan ha 4 punti di vantaggio sulla Fiorentina, però ha 2 partite, o meglio, l'ultima partita è confronto diretto a Firenze, quindi tranquillissimo non può stare. La penultima è in casa con la Roma. Se c'è una squadra in caduta libera, oggettivamente mi sembra, no, non è l'unica, perché in caduta libera assoluta è il Napoli, però mi sembra che anche la Juventus e il Milan siano messi abbastanza bene, dato che una delle due che insegue la Juve, insomma, credo che ce la farà a questo punto, però non c'è niente di scontato, è vero, perché quando cominci a perdere il bandolo della matassa diventa difficile. Io penso che domenica il Milan batterà la Roma in casa e quindi penso che chiuderà la pratica, però che sia così scontato non ne sarei assolutamente certo. Due messaggi molto belli entrambi. Saranno anche maestri della sceneggiata, ma il non intervento del signor Stefano Napoletano è il migliore di sempre. Con stima, scrive Andrea da Parma. E poco dopo, grande Stefano il Napoletano, il pudore del silenzio è quello che manca alle persone, addirittura nei minuti di raccoglimento, scrive Diego. Molto bravi. Scrive Antonio della Torre, invece, un messaggio un po' più lunghino, una mail ricevuta da poco. Mi chiamo Antonio Della Torre, sono di Riccione, ho 70 anni, tifoso dell'Inter. Ieri sera non sono riuscito a provare quella gioia che ti prende dentro, perché in campo ho visto le bizze, i capricci, le insofferenze di un signor campione Dio, signor giocatore, campione fuori classe o presunto tale che si chiama Ibrahimovic. Non lo capisco e non capisco chi non mette in luce e sottolinea questi comportamenti. Non crede che il signor Moratti dovrebbe accontentarlo e mandarlo a giocare dove vuole lui e il suo procuratore, ammesso ci siano squadre disposte a pagare le somme che chiedono? Antonio, sì, io penso di sì. Penso che se uno non ha più voglia di restare in un posto nel calcio moderno debba andarsene, e credo anche, lo so che con questa opinione vado un po' controcorrente, ma credo anche che sia, non dico giusto, logico così, che sia conseguenziale rispetto al mondo del calcio di oggi. E cioè, nel calcio di ieri il grande giocatore nasceva e si affermava con l'obiettivo di stare in quella squadra e di divertirsi e vincere il più possibile con quella squadra. Le sto parlando di Rivera, le sto parlando del povero Bulgarelli, le sto parlando di Mazzola. Nel calcio di oggi credo che se abbiamo fatto i nomi di Maldini, Totti e Del Piero abbiamo già finito, no? a grandi linee. Nel calcio di oggi, proprio perché è cambiato e perché ormai 3 anni, 4 anni in una società sono, non dico un tempo limite, ma sono un tempo molto lungo, io credo che uno che indubbiamente è un grande giocatore e che ha centrato gli obiettivi che poteva centrare in un posto, se si ritrova al massimo della condizione, nell'età ideale per tentare altre esperienze, e Ibrahimovic ha tutte e due queste caratteristiche, io penso che sia legittimo che faccia un pensierino per fare un'altra esperienza. Sia legittimo da una parte, e su questo non ci piove, e sia conseguenziale rispetto al modo in cui è cambiato il calcio, sicché davvero non ci vedo nulla di strano. Viene invece l'orologio ed è tempo di dare spazio alla rubrica storica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 18 maggio 1960. A Lampden Park di Glasgow, il Real Madrid conquista la sua 5ª Coppa dei Campioni consecutiva, al termine di una gara memorabile e piena di gol. Le Merengues si impongono sull'Eintracht di Francoforte con un perentorio 7-3. Protagonisti assoluti dell'impresa, Ferenc Puskas, autore di 4 reti, record tuttora ineguagliato in una finale di Coppa dei Campioni, e Alfredo Di Stefano, che realizza una tripletta. Ad assistere alla finale di Glasgow ci sono 135.000 spettatori, primato assoluto di presenze nelle coppe europee. È una finale di quelle che... Sì, la Coppa Campioni era la 5ª edizione, credo, stava nascendo, insomma, stava svezzandosi allora, ma certo che quello fu uno spettacolo, con Di Stefano e Puskas scatenati, fu uno spettacolo che contribuì, insomma, comunque a lanciare il mito della Coppa dei Campioni nel mondo. Ecco, Stefano da Udine scrive: vedere schierati nel finale della partita Udine i 3 palloni d'oro non è che sia stato un messaggio a Berlusconi da parte di Ancelotti. Oh, finalmente una riflessione, come dire, che va un po' al di là del semplice accaduto, perché più che un messaggio mi è sembrata proprio una risposta alle critiche a bordo piscina, alle critiche da happy hour, come si chiama, no? Che erano rimbalzate dall'Egitto. Paolo da Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, sì. Io telefono sempre in merito ad Ancelotti, sono un tifoso della Juve e vorrei tanto che, visto che ci sono tanti tifosi nausati Ancelotti, riprendono la Juve, visto che oltre che essere una persona che stimo Ancelotti... Ma Paolo, per ricominciare a urlargli maiale e a scriverglielo, no, non parlo di lei, sia ben chiaro. Cose che vorrei cancellare, la tifoseria juventina, anche perché mi sembra che Ancelotti alla Juve ha perso uno scudetto per colpa di Van de Sar, una delle tante colpe, che con Peruzzi sicuramente non avrebbe perso. Oltretutto, mi sembra che un'intervista di Rampulla a fine carriera disse proprio queste parole: con Peruzzi in porta forse la Juve avrebbe due scudetti in più. Può essere, ma in ogni caso fu veramente trattato male anche dalla dirigenza, ma soprattutto dal pubblico. Lo è tuttora, e quindi il pubblico della Juve, ma non il pubblico della Juve, perché io sono certo che il pubblico della Juve sia lei. Quelli che invece si arrogano il diritto di rappresentare il pubblico della Juve ne stanno facendo di carine, eh? Se quest'anno giocava Stankovic, per esempio, nella Juve anziché nell'Inter, visto che l'avevano praticamente comprato ed è stata la tifoseria a bloccarla l'operazione, forse Stankovic la sua figuretta nella Juve la faceva, ed era una figuretta in meno che avrebbe avuto l'Inter, così a grandi linee. Vittorio Monza, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. È sempre un piacere parlare con lei. Senta, io volevo parlare di Buffon. Sì. Io mi ricordo che lei in occasione degli europei disse: è un meno plastico di Casiglia, se lo ricorda? Meno plastico di Casiglia. Meno plastico. Trovava Buffon meno plastico di Casiglia, che è un grande portiere. E io vorrei dirle, se si ricorda, ho notato il campionato che ha fatto Buffon non è stato all'altezza della sua fama. Per me, cioè, ha fatto un campionato normalissimo, cioè non è stato quel Buffon che eravamo abituati a vedere. Beh, questo lo sa anche lui, non c'è dubbio. Amor di Dio, a parte i malanni che ha avuto, però non l'ho visto sicuro quest'anno. Io sono un tifoso milanista e amo il calcio, piace vedere i gesti tecnici e tutto quanto, però quando c'era in porta il Manninger sì. Erano più sicuri. Adesso senza esagerare, secondo me, però è vero che Buffon quest'anno ha accusato una flessione, e forse sta ancora accusando un periodo di non grande brillantezza. Tenga anche conto che sia nella Juve che in Italia Buffon, che nell'Italia Buffon è abituato a giocare alle spalle di difese abbastanza blindate. In questo momento la difesa della Juventus è da post-telegrafonici, perché compresi presunti grandi nomi o spacciati per tali, insomma. Quindi anche questo cambia un pochino le cose. Ancelotti in 8 anni di Milan, 1 scudetto, 2 coppe campioni, 2 supercoppe europee, 1 coppa Italia, 1 supercoppa di Lega, 1 FIFA Club World Cup, che non so cosa voglia dire. Francesco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Un attimo, sì. Volevo intervenire più, diciamo, su Ancelotti. Vorrei dire meno male che se n'è andato via, perché io mai visto un allenatore in 8 anni che lui è stato col Milan, non è mai intervenuto per i primi 45 minuti, mai fatto un cambiamento a vedere come la squadra va bene o va male. Mai visto un attore come lui. Dirige una grande squadra come Milan e non fare una cosa del genere. Lui sempre, se andava 2-0, andava 3-0, perdeva, vinceva, mai non interveniva, a fare un cambiamento. Sempre lui interveniva sempre negli ultimi 15 minuti. Se vinceva 2-0, se perdeva 2-0, per lui era la stessa cosa. E quando interveniva faceva sempre lo stesso errore. Sì. Mandava via un miglior centrocampista. Un minus sabe, insomma. Grazie Francesco, lo aggiungiamo al dossier Ancelotti minus Abens. Ancora un ascoltatore in chiusura, un po' più rapido. Daniele Bologna, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Dica. Velocissimo questo, lei mi fa lo stesso effetto che mi faceva Montanelli quando io leggevo il giornale. Man mano che la leggo, lo ascolto, lei mi convince sempre. Su una cosa le dico rapidamente. Questo è un complimento stratosferico che non merito. No, ma lo penso. Comunque lo metto. Sentito, so cosa pensa di Montanelli. Nel dubbio lo metto in archivio, perché è stato l'idolo della mia vita professionale. Questo. Su una cosa, il contenitore degli allenatori ritenuti di animo buono, e lei ne fa una trafila lunga, meravigliosa, l'ho ascoltata, letta, eccetera, non prevede, secondo me, o prevede a stento, una correzione per strada. Cioè, il campionato di Ranieri, mi riferisco a lui e vengo alla fine, è un campionato che non è scadente perché arriva terzo forse, è scadente perché la gestione della crisi della Juve da febbraio in poi è stata una gestione cattiva, è stato uno sfuggimento di mano di alcune cose fondamentali. E progressivo, sempre più, mi scusi, se sono costretto a sintetizzare, ci sentiamo al più presto in un'altra occasione. È progressivo e mi pare che non riuscire più a tirare i fili, ad annodare un minimo, sia questa sì una colpa, perché poi è oggettivo. Io sono il primo a dire che Ranieri ha portato la Juve al di sopra delle proprie risorse per un lungo periodo, ma insomma, adesso francamente mi sembra difficile la difesa di Ranieri nella gestione di questa crisi prolungata. Grazie a tutti, grazie a Pietro Lacorte in regia, Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.